fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ieri gli dèi mi hanno punito, formulai il dileggio sulla classe medica e un'ora dopo ebbi la gengiva squarciata e suturata da un sadico dentista. Quindi oggi scusatemi se ho la voce un po' impastata, ma sono veramente profondamente lesionato nella mia carne. Cosa ho fatto in questo momento? Ho fatto un meraviglioso spot pubblicitario di me stesso. Ho dato un carattere patetico sulla mia persona, ho aggiunto un'accezione di tragico vissuto e quindi in questo momento, pensando alla mia carne martorata, al mio sangue, con maggiore attenzione starete ascoltando. Un'operazione commerciale, bieca, ruffiana. Fatela anche voi questa mattina. 800 24 00 24, mettetevi in vendita, offritevi, fate lo spot di voi stessi. Alfabeta, vai da Natalina, fatti dare un caffè. Subito, signore. Capisce subito al volo. Quanto zucchero nell'ombrello? L'ombrello lo prendo senza zucchero. Ecco il caffè. Guarda che Alfabeta si è ingrippato, dai un goccetto d'olio. Con un po' di caffè si ripiglia subito. Ma è sicuro che è quello buono? È il tunine, è la vacca. Eh sì, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? E qualità oro Lavazza, in latina, nel pacco da 200 e in quello da 400 grammi, che conviene di più. È Lavazza, eh? Più lo mandi giù e più ti tira su. Buone le cipolline! Sott'olio? No! Sott'aceto! Né sott'olio né sott'aceto, sono cipolline alla peperlizia Ponti! Cipolline e peperoni alla peperlizia Ponti, una delizia! Di più, una peperlizia! Basta ascoltare qualche vecchio spot pubblicitario e immediatamente entra in azione la macchina del tempo. Che radio state ascoltando? La radio di adesso, la radio di 30-40 anni fa? Quanta nostalgia nei vecchi spot pubblicitari, quanta tenerezza, quanti ricordi, quanti personaggi. Avete sentito lo spot del caffè attraversato da grandi attori, uno grandissimo, Rinino Manfredi, e altrettanto grande la signora faceva la fantesca e marcescibile, che anche lei veniva dal teatro, era una grande attrice. E quanti doppi sensi salaci al liceo, all'università, su più lo mandi giù e più ti tira su. E la peperlizia. La peperlizia, che oggi ha meno di 20 anni, non sa nemmeno cosa sia, ma era meravigliosa la peperlizia. Non sappiamo cos'era, ma noi volevamo quella cipollina perché c'era la peperlizia. La pubblicità ha segnato fortemente la ricerca del benessere nel nostro DNA, in noi figli del dopoguerra, ma nei figli dei figli del dopoguerra, nei nipotini del dopoguerra, negli inconsapevoli bisnipoti del dopoguerra. La pubblicità era il tracciato più sicuro del benessere che ci apparteneva di diritto, che avremmo avuto. La pubblicità serviva a segnalarci delle possibilità di consumo. Consumare significa essere felici. Dice che il suo è il videogioco più bello del mondo. Sarà, però fa solo giochi. Io ho scoperto una bomba! Commodore VIC-20! Commodore VIC-20 fa di più, perché è un vero computer. Sa fare un sacco di videogiochi, tutti nuovi e divertenti. Ti insegna la lingua del futuro. Serve in casa. A scuola con lui diventi super. E costa come un videogioco. Oggi puoi scegliere il favoloso Commodore VIC-20 o l'incredibile Commodore 64. Oggi ti parliamo di software. Il tuo personal computer IBM è l'hardware. E questo dischetto che contiene il programma è il software. Ci sono centinaia di programmi per il tuo personal computer IBM. Ti aiutano ad archiviare dati, scrivere testi, pianificare, controllare, dirigere, tenere la contabilità, fare bilanci, progetti, grafici, analisi e a fare tutti i calcoli che vuoi. C'è un programma giusto per te, dal tuo concessionario IBM. Vai a trovarlo. Gli indirizzi sono sulle pagine gialle. Quanta strada è stata fatta dai primi anni 80, in cui il Commodore 64, il VIC-20 venivano accompagnati da questi piccoli rumorini spaziali, che era la colonna sonora dei film di fantascienza fatti a casa degli anni 60. Ancora eravamo legati al fatto che il computer stendesse una sorta di corridoio tra noi e il futuro annunciato, il futuro che seguiva pari passo questo nostro bisogno, desiderio, diritto di essere felici. Quindi noi siamo felici grazie alla pubblicità, perché sappiamo che possiamo permetterci di acquistare. La promessa di felicità nasce dall'acquisto, dal fatto che noi abbiamo l'idea che prima o poi qualcosa, qualcuno di quei prodotti può entrare a casa nostra. Nei primi anni del boom economico c'era il facile strumento della cambiale, oggetto di facezia, di battuta comica, di commedia all'italiana, in cui da Totò a Fabrizio, a Alberto Sordi firmavano mucchi di cambiali, mucchi di carta che trasformavano appunto la promessa di felicità in felicità concreta, perlomeno per il periodo in cui si riusciva a onorare le cambiali. Oggi siamo al momento delle grandi offerte, delle promozioni, del porti a casa e poi pagherai chissà quando, ma più o meno il meccanismo rimane lo stesso. Novità? C'è un bel regalo, mamma. Un altro forno. Ma se ce l'ho già. Ma non lo usi mai, questo è sforna tutto. Termostato, timer, selezione cotture e grande novità, luce interna. Sforna tutto, ma sei sicuro? Oh, fa solo toast, pizzette. Pizzette? Come queste? Mm-hmm. È per tutta la famiglia. Non ti chini più. E col timer si spegne da solo. E poi lo pulisco io. Si pulisce da solo. Sforna tutto. Mm, che cuoco, papà! Oggi anche con piastra elettrica per arrostire e cucinare. Sforna tutto e solo DeLonghi. Un esercito di cuochi a casa tua con Bravo Simac Secondo. Una velocità diversa per ogni funzione. L'unico con lama affettatrice regolabile. E per fare tutte le ricette del mondo, il libro Tutto con Bravo Simac. Bravo Simac Secondo, la macchina per cucina più completa del mondo. È un meccanismo meraviglioso per cui oggetti che in realtà sono strumenti di fatica, sono strumenti che affrancano soltanto nella parte crudamente materiale, quello che è il lavoro quotidiano di chi deve comunque cucinare, preparare da mangiare, accudire al necessario sostentamento di una famiglia, diventa un gioco. È pari al videogioco, pari al VIC-20, l'affettatrice automatica, il super frullatore, sono state le macchine meravigliose che costellavano l'idea di un futuro che stavamo vivendo. Quanti robot trita tutto da cucina hanno rasserenato quelle gite in pullman che venivano fatte di poveri vecchietti e altrettanto disgraziati signore e signore venivano portati in posti squallidissimi, messi in una stanza e bombardati finché non compravano un robot. Il robot della cucina è un altro degli oggetti che venivano pubblicizzati, che vengono pubblicizzati o che fanno parte di un'epoca particolare della pubblicità per regalare felicità. L'acquisto dà felicità. Poi siamo nella fase ultima, nella fase contemporanea, in cui la merce è talmente buona, è talmente dotata di pietas nei confronti dei poveri consumatori che dà felicità anche con la semplice contaminazione fisica. Gli outlet, i grandi giardini artificiali, i luoghi paradisiaci dove la merce viene esposta danno felicità anche semplicemente attraversandoli e senza acquistare. Già ci si sente nelle proprie cellule irrorati di piacevolezza solo per il fatto che si sta al contatto con quella merce che emana profumi, emana suoni, emana calore. Passare attraverso lo stand dei televisori accesi sembra improvvisamente che il mondo si accenda di fronte a noi. La stessa cosa vale per gli abiti, per le scarpe. Non a caso gli outlet oggi riproducono giardini, città, piazze, luoghi perduti della nostra fanciullezza, piccole chiese, graziose casette. E non a caso gli anziani, che sono le persone che hanno meno motivi per essere felici, vanno lì e passano felicemente i loro ultimi anni. Zigoli è una pallina che mi fa sentire più carina. Zigoli è una pallina che la fa sentire più carina. Zigoli, la pallina con vera frutta in farmacia. Mamma, scegli sicurezza per il tuo bambino. Io non ho mai provato un rap. Provalo, un rap Saiba è tutto nuovo. Ah sì? Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato. Ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema. Io non ho mai provato un ra. Ma come non hai mai provato un ra? Un ra! No, non ho mai provato un ra. Beh, peccato. Un ra Saiba, se non mordi, non ci credi. Riuscino perfino a farci desiderare i wafers, che è il più detestabile dei biscotti, in quella cremina dentro. Mi hanno sempre fatto schifo, ma vedere la pubblicità mi faceva immaginare che avessi bisogno anch'io di quella friabile sensazione fra i denti. Paolo Baudio di Vesme, buongiorno. Buongiorno. È autore del libro scritto con Franco Brigida, L'evoluzione dei media e della pubblicità in Italia, edizione Franco Angeli. Abbiamo presentato una carrellata romantica di antichi, ma nemmeno tanto, che poi alla fine risalgono a nemmeno tantissimi anni fa, spot pubblicitari. C'è stata un'evoluzione nel linguaggio pubblicitario? È soltanto la nostalgia che ci fa sembrare belli e teneri questi spot? Sicuramente c'è stata un'evoluzione del linguaggio nella pubblicità. Basti pensare che nel giro di pochi anni gli investimenti pubblicitari sono incrementati moltissimo e anche i mezzi a disposizione si sono allargati tantissimo. Si è passati da un insieme di pochi mezzi che sono quelli tradizionali in cui la televisione era il mezzo principale, ma era costellato insieme alla stampa e alla radio e alla fissione. Oggi i mezzi che si hanno a disposizione per comunicare sono tantissimi. Ecco l'esempio. Sì, mi dica. No, dico per esempio, diciamo, la televisione è quella più legata alla nostra generazione di figli del boom economico, nati e cresciuti con la televisione, quindi allevati alla televisione anche nel desiderio di felicità dato dal consumo. Oggi, quando viene fatto un investimento pubblicitario, come viene ripartito il budget per sommi capi? Ma oggi la televisione continua a essere il mezzo principale su cui si investe. Circa il 51% degli investimenti sono fatti sul mezzo televisivo. Il mezzo televisivo però è concepito molto diversamente rispetto a una volta. Una volta, anche solo 20 anni fa, c'era solo la RAI a cui si è aggiunta Mediaset, erano 6 emittenti. Oggi si parla oltre della televisione generalista, si parla di un insieme di emittenti tematiche che vengono fuori dalla televisione digitale terrestre o satellitare o anche IDP, cioè web, che sono tantissime. Oggi si parla di più di 200-300 emittenti esistenti sul mercato. Però concretamente mi sembra più un investimento sulla fiducia di quello che diventeranno, evolveranno, soprattutto il digitale terrestre, piuttosto che una realtà su cui già si possono fare concretamente dei conti. È sicuramente già una realtà, perché il digitale terrestre sta diventando una realtà in tutta Italia. Quello che sta diventando una realtà è la caduta e la perdita di share, quindi di audience, da parte delle emittenti generaliste, quindi parlo di Rai e di Mediaset, che già in 10 anni hanno visto cadere il proprio quota di mercato in termini di ascolto di un 10 punti, sono passati dal 90% di share all'80% e le previsioni che scendano al 70%. Ecco, quindi, chi se li prende però queste percentuali che cadono dalla televisione? Forse la rete, si parla anche tanto di internet, se ne è parlato anche in maniera ipervalutativa delle possibilità, sì, di investimento pubblicitario nella rete, però andando a vedere bene, alla fine non ci sono ancora delle maniere che ci permettano di fare delle scelte sui nostri acquisti, sui nostri bisogni di felicità, se non per un pubblico molto specializzato, coloro che vanno in rete, sanno cosa cercare, sanno dove acquistare, acquistano direttamente tramite gli strumenti informatici piuttosto che poi scegliere un negozio e andarci. Sì, allora lì bisogna distinguere due elementi. Prima di tutto, oggi la televisione nel suo complesso non sta perdendo quote di mercato, non sta perdendo investimenti, se non in quest'ultimo anno, che però è in linea con la perdita del mercato pubblicitario. Quindi la televisione nel suo complesso non sta perdendo. Quindi quello avevo capito poco perdendo fa che stesse perdendo pubblicità, invece investimenti pubblicitari. No, la televisione generalista. Ah, quella generalista. Sta perdendo quote di mercato sia in termini di share che di pubblicità. Quindi c'è una crisi percepibile della TV generalista. Sì, Ecco, e poi c'è il internet che sta crescendo tantissimo, sta crescendo a delle cifre, a doppia cifra, e anche quest'anno che ha un andamento più basso è comunque un andamento in crescita rispetto all'intero mercato che registra un segno meno molto pesante. Sì, è in crescita. Quindi, in termini percentuali, ma però se uno va a vedere, sì, in soldoni non è che, infatti, l'investimento sia tantissimo. Infatti, l'investimento su internet, secondo la Nielsen, sono 350 milioni di euro, che non sono tantissimi e che soprattutto sono suddivisi fra un numero altissimo di clienti. Gli investimenti dei singoli clienti su internet sono molto bassi. La ringrazio, professor Paolo Di Vesme. Devo lasciare necessariamente la linea, piacevolmente, all'informazione della borsa, ma ripeto al pubblico che ci ascolta di chiamare l'800240024, visto che gli esperti oggi li abbiamo qui al telefono. Provate a concepire una maniera secondo voi plausibile e efficace per mettere voi sul mercato, e la radio in questa mattinata vi darà il suo spazio gratuitamente. Melog 2.0. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ok, basta così. Ma noi siamo scienza, non fantascienza. Del resto il Palcolor l'abbiamo inventato noi. Noi siamo Telefunken. La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo. Telefunken, qualità costante nel tempo. Ciao amici! Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Qua nel sole ti spacca in quattro? Non si sbaglia, una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Iced Tea. Hey gang, Lipton Iced Tea! Great idea, Dan! Lipton Iced Tea, fenomenale! Dan Peterson che ci faceva la pubblicità del tè, lo ricordiamo, ci stiamo avvicinando alla pubblicità contemporanea, quella datata, quella che ormai è bella da osservare nei musei come un qualcosa che appartiene al nostro costume, appartiene al nostro ricordo. Sembra ormai svincolata, staccata la possibilità di pubblicizzare un prodotto magari ancora esistente. Perché? Perché la pubblicità deve essere adeguata, deve essere cronologicamente adattata al tempo in cui stiamo vivendo. Una pubblicità datata non è più efficace, quindi è come fosse una pistola scarica, può essere appunto messa in un museo. 800240024. Avevo chiesto al pubblico che forse ha preferito ascoltare i nostri esperti che ci hanno cominciato a raccontare come variano nel tempo gli investimenti pubblicitari, quindi come varia l'investimento generale da chi produce, da parte di chi produce merce per centellinare la nostra possibilità di essere felici, quindi di acquistare quella merce. E avevo chiesto di fare degli autospot pubblicitari, se possibile, visto che stamattina avete la radio che vi ospita. Se voi dovreste mettervi sul mercato, come vi descrivereste, come rendereste appetibile l'acquisto di voi stessi? Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Se mi è concesso, io invece di fare un mio spot preferirei dare una mia opinione su che cos'è. Quindi lei già si vende come opinionista, prendetemi perché ho opinioni da dare. Mi scusi, non ho capito. Già si vende, lei si mette sul mercato come opinionista, prendetemi perché ho opinioni da dare. Diciamo così. Diciamo, il cervello è la parte migliore di lei. Ok, ma speriamo. Quello che avevo intenzione di dire è che mi spiace anche che dissento con quello che ho sentito nel tuo studio, soprattutto dalle sue parole, è che secondo me la pubblicità, la maggior parte della pubblicità, crea bisogni che non abbiamo. Noi compriamo un oggetto. Ma che bisogno abbiamo di aver bisogni se qualcuno non ci dice che abbiamo bisogno di aver qualcosa? Mi scusi, lei è molto, molto più abile di me nelle parole. L'unico concetto che volevo esprimere è non tanto sulla pubblicità sotto l'aspetto dei fini culturali o interessanti come la letteratura, ma i fini puramente commerciali. Noi compriamo un oggetto, una volta che l'abbiamo comprato è già vecchio, c'è l'edizione nuova, e questo costituisce ansia. Sì, ma questo vale anche per i rapporti umani, affettivi, coniugali, amicali. Qualcosa quando l'abbiamo già usato e consumato è vecchio e ci verrebbe voglia di cambiarlo. Io questo è il bello forse di avere opinioni diverse. No, perché sai, transeunte tutto ciò che è segnato da appartenere al genere umano, e quindi è normale che sia così. E grazie a Dio qualcuno ci dice: vi offro l'upgrade della tua felicità, e quindi io sono stanco del mio orologino, me ne compro un altro. È una piccola occasione per essere felici, ma non si estinguerà mai il nostro bisogno di essere felici, e spero non si estinguerà mai la possibilità di offrirci occasioni di felicità. Rinaldo. Sì, buongiorno, salve, sono Rinaldo da Pordenone. Lei vende pannelli solari? Sì, io vendo pannelli solari. Mi dica uno slogan che si è coniato per i suoi pannelli solari. Ma il sole lavora per noi gratuitamente e dobbiamo approfittare di questa situazione, anche perché è un brutto periodo di crisi e dobbiamo prendere perché, le cose. Perché è nuvoloso il cielo dalle sue parti? No, non è nuvoloso, però quando c'è il sole bisogna approfittare, quello non è l'unica roba gratuita che ci è rimasta ormai. Quando c'è il sole puoi andare a spasso, tanto c'è il pannello solare di Rinaldo che ti riscalda chiaro. L'acqua. Che riscalda l'acqua. Com'è andata? Rinaldo ti tiene caldo, potrebbe essere un buono slogan, mi suggerisce Fabrizio Intonti. Ecco, posso anche dire la mia ditta? Sì, la dica, se fa parte delle occasioni che dovremmo avere di acquistarla. www.friulsolar.com. Ah no, sì, no, questa è un'infamata, non accetto pubblicità. Vuole farsi pubblicità in diretta, è un infamone. Allora, no, non comprate. L'avevo chiesto, l'avevo detto anche al centralinista se potevo propormi come venditore. Eh no, lei non può farsi pubblicità, deve passare per l'ufficio commerciale di Radio 24 e pagare, se no non mica può farla gratuitamente. Poi me la detraggono dal mio stipendio la pubblicità gratuita. Rinaldo ci ha provato, cattivello, non comprate il pannello di Rinaldo. Avanti, andiamo avanti con qualcuno che potrebbe darci forse dei lumi maggiori. Abbiamo Massimo Carpegna. Buongiorno Carpegna. Buongiorno. Ci siamo già sentiti altre volte in questa sgangherata, sì, esatto, trasmissione. Sì. Insegni filmica industriale alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e Economia. Ancora esiste Scienza della Comunicazione? All'Università di Modena e Reggio Emilia. Diciamo, l'università copre le due città, la mia facoltà ha sede qua. No, ma in generale il senso di una scienza della comunicazione ha ancora senso secondo te? Senz'altro, obbligatoriamente bisogna che dica che serve senz'altro. Avrei qualche critica forse sul modo in cui noi abbiamo gli strumenti poi per comunicare. Tu hai scritto un libro, Franco Angeli, Spot, un film in 30 secondi, come nasce e si produce la pubblicità televisiva. Quindi immagino che tante persone acquisiranno strumenti tecnici per fare pubblicità, ma risultato qual è secondo te? C'è una maggiore qualità e originalità nella creatività della pubblicità in Italia o ci stiamo appiattendo? Ma purtroppo devo dire che la pubblicità nostrana, quella italiana, non è che brilli in generale per una particolare originalità. Siamo anche in questo senso così abbastanza provinciali, e troppo sovente assistiamo a delle pubblicità che sono proprio relegate a un prodotto che si deve vendere solo ed esclusivamente, diciamo, sul nostro territorio. Bisogna andare forse in paesi anglosassoni, Inghilterra, Stati Uniti, ma anche nel resto dell'Europa, per vedere pubblicità che in qualche modo abbiano un respiro diverso. Non sarà che in effetti è il pubblico a cui ci si rivolge ancora dotato di strumenti molto provinciali, elementari di contatto con la merce, quindi certo, devo vendere certo. Il pannolone, devo far vedere sempre la vecchia felice che saltella e balla, esatto, perché c'ha il pannolone. Tra l'altro se me lo permetti, volevo dire solamente un piccolo appunto sull'intervista che è stata fatta precedentemente sui due sistemi, web e televisione, perché tutti noi, me compreso, che oltre a insegnare ho anche, diciamo, la fortuna di poter lavorare nel campo della pubblicità, noi stiamo vivendo un momento di grande transizione e anche di grande angoscia, perché fino a ieri avevamo, diciamo, le canoniche 7 televisioni nazionali, adesso avremo la moltiplicazione dei canali. Addirittura ci sarà difficoltà di sapere come è possibile, sarà possibile vederle tutte assieme, perché io ho visto serie difficoltà nei negozi di televisori di signori che dicevano: mi è scomparsa Rai 2, mi è scomparsa questa rete. Ma il discorso è che digitale terrestre o digitale satellitare sono comunque, nella maggioranza, sono poi delle emittenti per il quale, è vero che lo fa anche la RAE, ma si paga un canone, e una delle pubblicità che fanno proprio queste televisioni, immagino lo Sky di ieri più che il Mediaset, nuovo la RAE, nuova oggi del digitale terrestre, una delle loro pubblicità era proprio che l'interruzione pubblicitaria all'interno delle loro trasmissioni e dei loro film era piuttosto limitata, se non addirittura assente. Quindi questa moltiplicazione dell'offerta, dove tutti si si immagina che ci sarà anche una moltiplicazione degli inserti pubblicitari, lascia un po' qualche dubbio. L'altro sistema è il web, tutti continuiamo a parlare del web che è il grande futuro, moltiplicazione degli investimenti, dei contatti, di tutto quello che si vuole, però... ma la realtà dei fatti però non è così, è che noi oggi non abbiamo ancora ben capito come utilizzare questo strumento, siamo ancora a livelli, come dire, di empirici, cioè stiamo facendo delle prove. Perché? Perché la DSL, la fascia larga, tutto quello che volete. C'è un'altra cosa, permetti Carpegna. Sì. Vediamo se sei d'accordo. Sì. La pubblicità classica, televisiva, banale, sì, burina, chiamiamola come vuoi, ha sviluppato una sua poetica sulla nostalgia, sì, sul fatto che è datata storicamente. Com'è, sì, la pubblicità in rete? Il banner, la forma più banale, più detestabile, sì, il pop-up che si apre, le altre forme virali, pubblicità, non hanno ancora avuto possibilità di storicizzarsi attraverso un percorso che io mi ricordo, ah vedi che bella quella pubblicità. No, no, anzi, ti dico è solo che invasione. È solo un fenomeno invasivo. La pubblicità, esatto, televisiva, sì, riusciva a essere armonizzata col programma, a diventare addirittura programma in se stessa. Oh, addirittura essere... più bella del programma che la ospitava. Ecco. In rete invece c'è questo spartiacque drastico, tutto ciò che è pubblicitario fa schifo. Perché? Ma intanto c'è un problema tecnico, nel senso che è vero che in quasi tutte le case oggi c'è un computer, un allacciamento alla rete, è anche vero che però diciamo questi server la possibilità di avere rapidamente delle informazioni visive e l'immagine è molto pesante, anche se ci sono sistemi oggi per renderla più leggera, ma comunque fa fatica poi ad essere acquisita dal nostro computer. Il banner è un'altra serie di informazioni o qualsiasi altra cosa pubblicitaria, è una serie di dati che appesantisce che cosa è il segnale e quindi io sto mezz'ora per aspettare che si carichi l'immagine e questo è preso come un fastidio, non è come guarda, la pubblicità all'interno di un film. Bravo, esperienze passate in cui mi occupavo anch'io di queste cose, ricordo riunioni interminabili con gli addetti alle vendite, si facevano grandi prospetti, poi alla fine altro non era che vendere spazi banner o spazi pubblicitari, quindi appesantire la navigazione, quindi dare uno strumento che in realtà creava fastidio, disagio e non accresceva nulla della piacevolezza, del divertimento, del senso di trasgressione di chi navigava in rete. Melog 2.0. Perfetto. Dino R. Collofit. Collofit? Sì, Collofit. Giusto collo. Come la mia. Credetemi. E se va bene a me, buona camicia a tutti. Dino R. Proprio una camicia coi baffi. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, Cinghiale. Cinghiale, la grande marca. So quello che tutti si aspettano che dica in questo momento, non lo dirò mai. Stiamo facendo una carrellata degli spot televisivi che hanno costellato le facezze della nostra vita passata, spot che noi vediamo ormai appoggiati teneramente negli scaffali di un museo. Perché? Perché non essendo contemporanei alla nostra fruizione dei mezzi di comunicazione di massa, non appartengono più al desiderio, quindi non ci invogliono più a fare nulla, o perlomeno ci invogliono su prodotti che appartengono soltanto alla nostra nostalgia. Ma esistono, visto che questa mattina parliamo di pubblicità, oggi forme diverse. Ho parlato di pubblicità sempre come qualcosa legato a una sorta di circuito luciferino di desideri di felicità, ma esiste anche quella che chiamano pubblicità sociale, la pubblicità intorno alle grandi iniziative sociali, al benessere appunto dell'umanità. Ce ne potrebbe parlare questa mattina Paolo Peverini, che è docente di semiotica e semiotica della comunicazione visiva alla LUISS di Roma, che ha scritto appunto Uniconventional, valori, testi, pratica, la pubblicità sociale per l'edizione Meltemi. Peverini, buongiorno. Buongiorno. Pubblicità sociale sembra quasi un controsenso, una poria, una contraddizione in se stessi. Si può pubblicitare qualcosa che non appartenga al piacere del consumo? Sì, infatti questa è un'espressione un po' controversa, in realtà non è paradossale, perché la pubblicità sociale serve a promuovere temi, valori che spesso per noi sono molto, molto critici, molto indigesti, ed è proprio questo che spinge negli ultimi anni a sperimentare forme sempre più innovative, spesso di rottura, spesso anche molto controverse di pubblicità. Ecco, ma chi la finanza, chi la paga la pubblicità sociale? Beh, dipende, la pubblicità sociale può essere fatta da un'istituzione, quindi dal mondo della politica, ma può essere fatta anche dalle associazioni. può essere fatta da quell'universo molto complesso e labirintico delle ONG, ad esempio, piuttosto che di tutto il mondo che ruota intorno alla difesa dell'ambiente. Quindi sono delle pubblicità, delle pubblicità che in fondo mirano alla gratificazione interiore di chi segue quello che è appunto l'indicazione, nel senso occupati anche te, non so, della salute del pianeta, della fame nel mondo, della prevenzione di alcune malattie, a non dare fuoco ai boschi. Adesso non so, un'infinità ce ne sono in pubblicità, è un mondo molto frastagliato, molto anche controverso, con tante anime anche al suo interno, diciamo la verità, no? Sì, noi in Italia ricordiamo ancora pubblicità progresso e quindi uno stile di comunicazione nell'ambito del sociale molto molto superato. Nel libro io mi sono occupato della dimensione unconventional, quella che viene definita appunto non convenzionale, e quindi parliamo di quelle tattiche, di quelle tecniche di attacco nei confronti del destinatario. Faccio un esempio: entrare in macchina, sistemare lo specchietto retrovisore prima di uscire dal parcheggio e rendersi conto che qualcuno ha attaccato un adesivo che ritrae l'innalzamento dell'acqua, piuttosto che un bambino che chiede l'elemosina. Tu non hai neanche il tempo di renderti conto che sei già preso nel meccanismo della pubblicità sociale, piuttosto che alcune campagne straordinarie che sono state sviluppate in paesi che noi generalmente non consideriamo interessanti da questo punto di vista, sbagliando, come la Cina, l'India e il Brasile, in cui l'WWF ad esempio ha scatenato delle iniziative molto, molto affascinanti. Ecco, qual è il rovescio invece della medaglia quando si fa una campagna del genere? Che le persone non vogliono essere turbate nel loro desiderio e bramosia di felicità data dal consumo da qualcuno che gli ricorda anche situazioni drammatiche, che non sempre ci fa piacere esserne contaminati. Sì, siamo tutti d'accordo, siamo tutti partecipi, ci sono momenti della nostra vita, della nostra giornata che siamo onesti e concreti, non amiamo che qualcuno ci ricordi la fame nel mondo, perché non siamo santi, è il nostro limite dato dal fatto che siamo esseri umani. Infatti una delle forme più interessanti che sta assumendo la dimensione della pubblicità sociale a livello internazionale riguarda proprio l'abbandono dei toni drammatici, crudi, cruenti, quello che i tecnici chiamano il fear arousing appeal, e l'adozione invece di uno stile molto irriverente, surreale. Addirittura in qualche caso può sembrare paradossale, ma divertente, euforico. Quindi si cerca di far passare dei temi drammatici lavorando sul piano proprio della costruzione dell'evento pubblicitario in maniera divertente. Faccio un esempio: ci sono anche dei casi di vera e propria imboscata della pubblicità sociale all'interno della pubblicità commerciale. In Indonesia il WWF utilizza un importante evento sportivo in cui si sponsorizzano delle gare di surf e piazza di notte un numero molto grande di scodelle che ricordano i gusci delle tartarughe esattamente sul campo di gara, in modo tale che il giorno dopo le persone che arrivano per l'evento si trovano dentro un meccanismo di discorso interno al discorso. Quindi vedono la scodella rotta, pensano alla povera tartarughina spiaccicata, gli viene in mente che forse bisogna darci... Forse oltre all'evento sportivo in Indonesia c'è un problema legato proprio all'estinzione di questi animali. Sentiamo Maurizio che ha pronto uno spot su se stesso, se qualcuno risponde al mio disperato appello. Maurizio. Allora, buongiorno e grazie. Saluti a lei che la seguo sempre. Il mio spot è questo: io vendo il vendo, cioè tutto ciò che uno ha bisogno in quel momento, al prezzo che occorre, tutto qua. Però non ho capito che vende. Tutto. Beh, tutto vendo adesso. Il vendo, io vendo computer, però normalmente uno mi chiama e non so, ha bisogno di un qualsiasi altra cosa, lo vendo. Ma è come quelle macchiette nei film di Totò che aprono la giacca, dentro c'hanno le penne stilografiche, queste cose. No, non mi sento una macchietta perché io ho detto alla fine al prezzo che occorre, cioè in base alla persona che mi ordina. Lei è disponibile a vendere tutto, dal carro armato al lago per cucire? Ma certo, ma perché no? È così che io penso che sia. Se questo corrisponde a un'effettiva possibilità, fa molto piacere. La persona con cui tutti vorremmo avere rapporti, vorremmo avere il suo telefono sempre a disposizione. Se vuole glielo lascio. No, okay. In questo momento a carri armati sto abbastanza a posto e ho chi mi rammenda i pedalini. Grazie, arrivederci Luigi. Luigi, buongiorno, anzi, arrivederci Maurizio, buongiorno Luigi. Sì, buongiorno a voi. Come dicevo alla sua collaboratrice, purtroppo non ho collaboratrici, sono alla persona che ha ricevuto la mia telefonata per prima. come dicevo, io ho fatto nella mia vita un motto che seguo costantemente e quantomeno ci rifletto prima di dare retta a una pubblicità. Prendi la direzione opposta all'abitudine e quasi sempre farei bene. Effettivamente valutando bene quando uno legge una pubblicità, se ci riflette, se ci pensa, al 99 volte su 100 quasi sempre si azzecca. Quindi questo è il mio... Cioè non perseguire la propria pigrizia di fare qualcosa che è un percorso, che sia un percorso abitudinario, quindi andare controcorrente vuol dire qualcosa che ci dà piacere, ecco. Sì, ma non fatto per preconcetto, ho fatto proprio perché forse rifletterci sopra molto bene quando si legge o si vuole acquistare qualcosa o comunque si vuole aderire a quello che la maggior parte delle persone fanno, sicuramente... porta dei risultati positivi a lungo termine, lo possiamo vedere con la vendita delle app GPL adesso, lo possiamo vedere con quello che succede in borsa, lo possiamo vedere insomma un pochino in tutto. Lei pensi, io veramente sono fuori da ogni possibilità di vivere il mio tempo, uso la stessa acqua di Colonia da circa 30 anni e quando ho saputo giorni fa che non la producono più sto cercando di accaparrare tutti i fondi di magazzino, perché per me sarebbe una ferita incolmabile e assolutamente impossibile da sostenere il fatto che non trovi più la mia acqua Colonia che uso da 30 anni. Ma sicuramente la sua acqua di Colonia non è pubblicizzata. No, assolutamente, no che non esiste più, non so, la trovavo soltanto in qualche vecchio profumiere, quindi sono molto disperato per questo. Beh, io ringrazio alla fine di questo paradossale percorso attraverso le pubblicità del passato e le ambizioni, le velleità e una velocissima possibilità di analizzare quello che oggi è il punto del mercato pubblicitario. Ringrazio Massimo Carpegna, Paolo Peverini, Paolo Baudi di Vesme che ci ha lasciato, ringrazio soprattutto Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.